Le difficoltà sono notevoli, ovviamente io non parlo dell'accoglienza strutturata che può essere quella dei CAS o comunque delle strutture messe a punto dalla regione, dalla protezione civile, parlo un po' di quello che è l'impatto sui territori, per cui il problema in cui ci troviamo a confrontare noi è quello di avere sollevato una grande disponibilità da parte dei cittadini, delle famiglie che si sono rese disponibili appunto a ospitare mamme con bambini, comunque famiglie prevalentemente mamme con bambini o persone anziane provenienti dall'Ucraina e scappate già dalle primissime settimane, con un arrivo prima a sgocciolo e poi dopo più imponente, come poi tutti hanno potuto vedere insomma in questi ultimi mesi. Questa disponibilità, questa voglia insomma di fare qualcosa, che per un verso insomma ci poteva anche far riflettere sulla particolarità di questa emergenza rispetto ad altre emergenze di profughi e di migrazioni che già c'erano, che avevano meno attenzione, forse meno empatia da parte delle persone, ma senza aprire questa parentesi, diciamo questa disponibilità, che comunque era un fatto positivo, non ha avuto, per quella che è la mia esperienza, ma anche di tanti altri colleghi sul territorio, quel supporto, quell'attenzione da parte delle istituzioni che ci si aspettava, per cui molte famiglie hanno cominciato a ospitare con l'idea e con la rassicurazione da parte delle autorità che avrebbero potuto poi entrare a far parte di un progetto, quindi entrare negli ex SPRAR, oggi STAI, SAPROIB, insomma come si chiamano adesso, o d'altra parte entrare in quella rete di accoglienza diffusa di ospitalità in casa che era gestita precedentemente dal progetto VESTA, che fa sempre parte del sistema dell'accoglienza, ma in realtà tutto ciò purtroppo non ha funzionato, nel senso che le famiglie che sono ospitate si sono trovate senza alcun supporto economico, quindi non sono stati dati riconoscimenti. Noi come comune abbiamo fatto il possibile, cioè abbiamo messo a disposizione un po' di risorse, ma diciamo non abbiamo quelle possibilità lì, non abbiamo quel tipo di, non abbiamo leva fiscale, non abbiamo modo di intervenire in maniera importante in questo campo, quindi abbiamo dato un sostegno economico immediato alle famiglie ospitanti, perché comunque ovviamente avere una mamma con due bambini, tre bambini, più persone anche, comporta delle spese, se non altro alimentari, molto più alte. Però poi appunto i contributi economici non sono arrivati per le famiglie, anche se inizialmente si era fatto intendere che ciò potesse avvenire. E il progetto VESTA, che era un progetto lodevole, io lo conoscevo da prima già di questa emergenza, ma era un progetto minuscolo che gestiva pochissima accoglienza in famiglia, perché erano pochissimi quelli che meritoriamente accoglievano in famiglia dei profughi, dei rifugiati, e quindi non ha potuto gestire la mole di queste ospitalità, la voglia delle persone di prendersi in casa dei rifugiati per poterli ospitare, quindi sono rimasti abbandonati a se stessi, senza supporto, senza poter tramite questo meccanismo entrare nel sistema dell'accoglienza, e quindi poi dopo noi come amministratori locali ci troviamo a fronteggiare queste situazioni con famiglie che ovviamente si lamentano con noi perché non sono supportate e che poi hanno anche dei problemi pratici notevoli. Io mi trovo in questo momento a gestire una situazione di una famiglia che ospitava, che non poteva più ospitare per ragioni su cui ovviamente non entro, per ragioni anche di riservatezza, però l'ospitalità non era più proseguibile. La prefettura ci aveva comunicato in pompa magna di aver istituito tutto un meccanismo apposito per prendere in carico queste situazioni, cioè ospitalità volontarie, che ormai segnavano il passo dopo 2-3 mesi di tempo. Questo meccanismo non funziona, quindi noi è da più di 2 settimane che aspettiamo che ci diano una soluzione per una famiglia in una situazione di una convivenza non più proseguibile, non più tollerabile, quindi una situazione anche con dei minori, insomma, delicata. E questo è estremamente frustrante, perché l'impressione è quella che, come dire, dopo aver speso parole retoriche su questa l'importanza di questa accoglienza, dopo aver anche in qualche modo assunto un atteggiamento anche a livello istituzionale quasi un po' ipocrita rispetto, diciamo, a quella che era la gestione precedente delle costanti emergenze migratorie che abbiamo, dopo quella appunto prosopopea, dopo quella retorica, poi in realtà tutto si è spento in una situazione di sì, con alcuni stanziamenti, con un po' di risorse a pioggia mandate nei distretti per alcuni piccoli interventi. Per esempio la regione ha stanziato 500.000 euro per frequentare gratuitamente ai bambini ucraini i centri estivi, ma è una goccia nel mare rispetto al numero di bambini che sono arrivati e al numero quindi di accoglienze che si potevano effettivamente devono gestire con quelle risorse. Infatti volevo farti una domanda su questo tema, perché al di là del sostegno economico alle famiglie ospitanti, ci sono problemi anche sui percorsi di integrazione di queste persone. Sì, ci sono difficoltà, perché anche qui quella che sembrava inizialmente, no, una gestione straordine, e quindi con regole particolari, poi possiamo ragionare se è giusto o non giusto averle applicate anche prima, però quello che sembrava essere, diciamo, una disponibilità, una capacità di comprendere l'emergenza e gestirla come va gestita un'emergenza, in realtà poi la procedura per riconoscere a queste persone un titolo di soggiorno valido, quindi un permesso di soggiorno valido, è stata ricollocata quasi nell'ordinarietà, per cui noi abbiamo per persone che sono qua ormai da marzo, quindi sono arrivati i primissimi giorni, che ancora faticosamente stanno aspettando la chiamata in questura per completare la procedura, e questo significa attribuzione di codice fiscale, e questo significa poter quindi lavorare, poter quindi affittare una casa, poter aprire un conto corrente, cioè poter fare quelle robe che rendono autonoma un nucleo, autonoma una persona che sia arrivata qua. È vero che questa è un'immigrazione particolare in cui c'è già un flusso di ritorno, perché evidentemente molti sono partiti anche in una fase di incertezza in cui la guerra aveva dimensioni diverse rispetto al territorio ucraino e non si sapeva come si sarebbe poi, no, consolidato lo scenario, però è altrettanto vero che ci sono persone che sono qua e appunto sono bloccati in questa sorta di limbo, ma anche solo che per fare queste procedure dovevano recarsi, non so, al loro consolato di Milano per recuperare della documentazione, poi andare in tribunale a farla tradurre, andare in tribunale a farla asseverare, cioè tutte procedure che con l'emergenza hanno poco a che fare. Poi è chiaro che le tematiche del permesso di soggiorno sono sempre delicate, però se le gestiamo in questa maniera la burocrazia poi ammassa qualsiasi comprensione delle necessità quotidiane delle persone e anche di poter, insomma, in qualche modo avviare un percorso di integrazione, di messa in relazione col territorio. Queste criticità che sono imputabili allo Stato o anche a enti locali? Noi come ente locale, io penso che quello che potevamo fare abbiamo fatto, sia a livello economico che a livello proprio di impegno quotidiano degli uffici, degli assessori, dei sindaci, eccetera. Credo che facciano capo un po' a una mancanza di conseguenzialità, cioè c'è questo problema, ci metto delle risorse, ma le metto anche nelle procedure, e quindi è inutile che metto delle risorse, e quindi per esempio stanzio, come ha fatto lo Stato, no, un contributo per i rifugiati presenti qua, ma lo affido a una procedura che è talmente lunga e complicata, per cui questi se vedono i soldi li vedono dopo 3 mesi, e peraltro facendo anche una valutazione che ha tagliato fuori tutte le ospitalità volontarie, perché un'ospitalità volontaria, la famiglia che ha ospitato non riceve nulla, perché il contributo andrebbe ai rifugiati, ma se questi poi nel frattempo sono entrati nel sistema dell'accoglienza o sono tornati indietro, magari per 2 o 3 mesi una famiglia ha ospitato e non avrà nessun tipo di sostegno, magari non ne ha bisogno, magari se si è resa disponibile perché aveva le possibilità per farlo, però è un brutto segnale secondo me che si dà ai cittadini, cioè quello di gli chiediamo un aiuto e poi però sostanzialmente scompariamo.